In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it. Passione. Eroi. Viaggi nell'anima. Colpi d'ala. Coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Gelli. Un altro calciatore di quelli che ci piacciono, di quelli con delle vite particolari, è una storia che può interessare anche a quelli che magari detestano il calcio, perché questa è una storia di vita, un uomo che da più di 25 anni sta sempre con la valigia pronta sotto al letto, e non per ingordigia, non perché sia alla ricerca di nuovi ingaggi e neanche perché non si trovi bene nelle squadre nelle quali gioca, è un uomo spinto prima di ogni altra cosa dalla curiosità, e quindi già ci piace la sua voglia di scoprire nuovi mondi, nuovi modi di intendere il calcio, l'hanno portato a giocare anche in serie minori, magari in campionati non di vertice, campionato cileno, a Israele, in Grecia, El Salvador, però il suo cammino invece parte da una nazione gloriosa, l'Uruguay, patria di glorie calcistiche, di spirito imbevuto nella garra charrua, che è un, come dire, un atteggiamento di vita, una parola intraducibile, la voglia di non mollare mai. L'Uruguay, grandi calciatori, grandi uomini, e tra questi c'è anche il protagonista della nostra storia di oggi. Si chiama Washington Sebastian Abreu Gallo, ma tutti lo conoscono come El Loco Abreu. E per iniziare il nostro racconto voliamo a Johannesburg in Sudafrica, l'estate del 2010. Il tabellone della Coppa del Mondo presenta ai quarti di finale una sfida inedita, Uruguay-Ghana. Sarà una delle più belle partite di tutto il mondiale. Va detto che da quando io ero ragazzino, dal 1974 almeno, a ogni mondiale tutti dicono: questo sarà il mondiale delle squadre africane, il calcio africano e il calcio del futuro. E poi invece sono passati 45 anni e non è mai successo, il calcio africano rimane sempre ai margini, non arriva in semifinale mai. Però in questa partita i ghanesi hanno dalla loro parte milioni di africani che sognano per l'ennesima volta di vedere una nazionale del loro continente arrivare tra le prime quattro, e dall'altra c'è l'Uruguay, dall'altra parte, squadra che da troppo tempo vive di ricordi, due mondiali vinti nel 30 e nel 50, insomma un'epoca nella quale il calcio era un altro sport. Ha un nuovo corso l'Uruguay in questo momento, Oscar Washington Tavares, allenatore mitico, sta cercando di far rialzare la testa alla Celeste, la squadra uruguayana. In questo caso è competitiva, è piena di talenti, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita, le squadre non deludono le aspettative, segnano Forlan per l'Uruguay e Muntari per il Ghana, due giocatori che sono venuti in Italia entrambi. E al 90esimo il risultato è ancora sull'1-1, si va ai supplementari, nell'ultima azione della partita c'è quello che potrebbe essere l'appuntamento con la storia, calcio d'angolo per il Ghana, pallone che finisce in mezzo all'area di rigore, un attaccante ghanese che va a colpo sicuro e il pallone che viene respinto con le mani sulla linea di porta, con le mani ma non dal portiere Muslera ma da un attaccante dell'Uruguay, Luis Suarez. Rigore per il Ghana, si materializza il sogno della semifinale, l'Uruguay rimane in 10, Suarez viene espulso, tutto il paese uruguagio è quasi rassegnato a dire addio al mondiale. E l'ultimo momento della partita è questo: sul dischetto del rigore va Asamoah Gyan. Asamoah Gyan has the opportunity to send Ghana into the semi-finals of the World Cup. Ma il calcio è imprevedibile, il bello del calcio è questo, il rigore di Asamoah Gyan è la conferma di tutto questo. L'attaccante calcia forte, vuole spaccare la porta col suo tiro, assieme a lui c'è tutto il popolo africano che sta calciando quel pallone che sbatte sulla traversa e finisce fuori. Asamoah Gyan è disperato, non può credere di avere sbagliato, ha sbagliato il rigore più importante della sua carriera e dell'intera storia del calcio africano. L'arbitro fischia la fine e saranno così i rigori a decretare la prima semifinalista del mondiale sudafricano. E proprio in questo momento il protagonista della nostra storia di oggi entra in scena, è Sebastian Abreu. Lui aveva visto tutte le partite della sua nazionale in panchina, anche perché i titolari di quella squadra si chiamavano Edinson Cavani, Luis Suarez, Diego Forlan, gente all'apice della sua carriera. Lui ha 34 anni, non è certo all'apice, non è in quel momento un giocatore di vertice, insomma non è un titolare, però Tabárez, l'allenatore, al momento di giocarsi il passaggio del turno ai calci di rigore, sceglie proprio lui che era appena entrato, è Loco Abreu. Si parte per l'Uruguay, segnano Forlan, Victorino e Scotti. Per il Ghana proprio quella Asamoah Gyan che un attimo prima aveva sbagliato il rigore, segna Appiah, poi arrivano gli errori, sbagliano Mensah e Agia per il Ghana e Maxi Pereira per l'Uruguay. Insomma, risultato 3-2 per l'Uruguay e tocca a lui, tocca al Loco. Se segna, l'Uruguay è in semifinale. Lui cammina piano, parte dal cerchio di centrocampo, arriva al centro dell'area di rigore. E tra lui e il portiere ci sono solo il pallone e 11 metri. Abreu, un tipo particolare, arriva a tirare quel rigore con i capelli lunghi, la barba disordinata e la sua maglia numero 13, quella che l'ha accompagnato per tutta la carriera nei club e in nazionale. Insomma, non è l'immagine, diciamo, del calciatore metrosexual di oggi, un calciatore che sembra sempre appena uscito dal parrucchiere. Lui è proprio diverso, è un anarchico anche nella postura, nel modo di fare, nel modo di pettinarsi, o meglio di non pettinarsi. Bene, il Loco prende il pallone, lo mette sul dischetto, prende la rincorsa, sta pensando di mostrare al mondo il suo marchio di fabbrica. Per tentare un rigore a cucchiaio ci sono tre regole. La prima è osservare il portiere. La seconda è correre veloce verso il pallone. La terza è giocartela con parsimonia. Dal Vangelo secondo il Loco Abreu, queste sono le basi per calciare un rigore perfetto, un rigore a cucchiaio. È tutto nella personalità, nella capacità di saper gestire l'emozione che deve avere un calciatore, soprattutto quando si presenta a calciare un rigore. E quello non è un rigore come gli altri, è un rigore che può mandare la tua nazione in semifinale. Abreu chiude gli occhi, si avvicina al pallone, arriva e fa il cucchiaio, alla panenca dicevano i nostalgici. Insomma, fa la cosa più spavalda, più pericolosa, più meravigliosamente terribile che si possa fare in quel momento, il cucchiaio. Le va a pegar Abreu, puso la pelota al numero 13, si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda, va a ir el Loco. Larga carrera de unos 4 o 5 pasos, brazos en jarra, llega el Loco, va Abreu, tiró. ¡Gol! ¡Uruguay no va! ¡Gol! ¡El Loco! ¡La picó el Loco! ¡El Loco la picó! ¡El Loco la picó! ¡El Loco la picó! ¡Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo! Con una actuación del Loco Abreu ahora en el momento más difícil, con nervios de acero, con una frialdad absoluta y única, el Loco Abreu pone a Uruguay en las semifinales de la Copa del Mundo. Vamos a jugar el martes con Holanda, nos quedamos hasta el final. Tomá Pavó, Uruguay está en las semifinales, Uruguay entre los cuatro, el Loco Abreu acarició la pelota, Quinson se tiró al agua y Uruguay no va. ¡Está en las semifinales de la Copa del Mundo! E quel rigore segnato in quel modo contro il Ghana riscatta un mondiale che per il loco si stava trasformando in una vacanza. Una vacanza dolorosa, lui soffriva a non vedere mai il campo. E poi la figlia che gli chiedeva come mai i papà degli altri bambini giocano e tu no. Insomma, lui è in imbarazzo di fronte alla domanda della piccola, non riesce a rispondere. Lei lo guarda, è lì al viso truccato con i colori della bandiera dell'Uruguay, la scritta Fuerza Papi sulla fronte. Sono cose che fanno male. E dopo quel rigore la vita del loco cambia per sempre. Abbiamo iniziato a raccontare la sua storia da questo episodio, ma andando a ritroso noi scopriamo che questo è solo l'apice della sua carriera, che era cominciata tanti anni prima, che era trascorsa in maniera diversa rispetto a tutti gli altri calciatori del mondo. Sebastiano Abreu nasce a metà degli anni 70 in Uruguay, a Minas, che è una cittadina di 30.000 abitanti, fondata dai coloni spagnoli, dalle famiglie che lì si sono stabilite, dopo aver tentato, magari senza riuscirci, di costruirsi una vita in Patagonia. Siamo a Minas, quando è ragazzino Abreu gioca a basket, arriva addirittura alle nazionali giovanili, ma lì viene cacciato, perché ha l'abitudine di svignarsela di nascosto dai ritiri, di rientrare solo a notte inoltrata. E beh, se ti fai beccare, ci sono tanti calciatori che conosco della mia generazione che non si facevano beccare. Comunque lui decide di dedicarsi anima e corpo all'altro sport nel quale non se la cava male, che è il calcio. E da qui, da Minas, inizia il suo viaggio che lo porterà letteralmente a fare il giro del mondo. E la prima tappa è quella della squadra del suo quartiere. Gioca, segna, intanto coltiva anche la passione per la scrittura, perché collabora con un giornale della zona. Un giorno gli viene chiesto di scrivere un articolo su una partita della sua squadra, di intervistare il migliore in campo, e il migliore in campo era stato lui. E quindi il giovane loco fa un'intervista a se stesso, un po' alla Marzullo, si fa una domanda e si dà una risposta. Abreu intervista Abreu, diventerà una specie di pezzo di storia del giornalismo locale, e questo ti dice molto del personaggio. È uno che non si tira mai indietro di fronte alle opportunità che gli vengono offerte, e dalle giovanili lui passa piano piano al calcio dei grandi. È un attaccante a lunghe leve, a piedi buoni, e lui sogna di diventare un calciatore professionista. Quando raggiunge il suo obiettivo, il primo pensiero è quello di comprarsi una casa. Non si perde in sfizi, è uno pratico e consapevole di essere un privilegiato rispetto a quelli che fanno fatica a arrivare alla fine del mese. I primi anni al Defensor Sporting in Uruguay, poi al San Lorenzo in Argentina, e tutto questo gli apre le porte della nazionale. Nel 1996 veste per la prima volta la mitica maglia celeste, l'unica casacca alla quale si legherà per sempre. Io non devo tornare in nazionale, perché ci sto già in nazionale. Anche se non gioco con la maglia dell'Uruguay, io mi sento parte della nazionale, perché per la nazionale io ci sono sempre, ci sarei sempre, ci morirei per il mio paese. La nazionale, nella carriera di Abreu, è il suo porto sicuro. Lui già quando è ragazzo comincia a girare per il Sud America, cambia casacca con la stessa frequenza con la quale Dennis Rodman cambiava il colore dei capelli. Comincia a girare il mondo, scopre nuove realtà, conosce persone, va alla ricerca sempre di nuovi stimoli, nuovi modi di intendere il calcio. Anche in Europa si accorgono delle sue qualità, in particolare dalla Spagna, che è un paese sempre molto attento ai giovani talenti del calcio sudamericano. Abreu nel 1998 va a La Coruña. Alla fine degli anni 90 lì sta nascendo una squadra ambiziosa con molti talenti, che ha l'obiettivo che hanno tutte le squadre spagnole di interrompere il duopolio Barcellona-Real Madrid. Si è trasferito nel nord della Spagna, ha molte buone intenzioni. L'avventura però non va come sperava, poche presenze, pochissimi gol. Insomma, per la prima volta nella sua vita conosce l'amaro sapore del fallimento, della delusione. Ma il nostro protagonista non è un tipo che si lascia abbattere facilmente da questa situazione, cerca di trovare qualcosa di positivo, lo racconta anche in un'intervista rilasciata a El País Uruguay. Le delusioni nel corso della mia carriera sono diventate vitamina pura. soprattutto quando nel calcio ti mettono al palo, ti dicono che devi ritirarti o che non hai le qualità necessarie per giocare in questo o in quel club. Al momento ti senti triste, però questa tristezza è come un boomerang. Nasce come tristezza, ma torna indietro come vitamina pura che ti fa dire: voglio vincere. Non mi sconfiggeranno mai e continuerò a lottare per dimostrarlo. Le delusioni che sono vitamina pura, sottoscrivo questa frase col mio sangue. La sua capacità di trarre sempre il meglio da ogni situazione diventerà uno dei pilastri della carriera e della vita del Loco, la sconfitta che dà la giusta motivazione per fare sempre meglio, per impegnarsi di più in allenamento e anche in campo, per dimostrare di avere tutto per poter stare al passo coi migliori, alla Corugna, e i calciatori di talento non mancano, però lui insomma ha l'occasione di allenarsi con gente di calibro superiore, e uno di questi per esempio è il brasiliano Di Alminha, che gli insegna quella tecnica di rigore a cucchiaio che poi gli servirà, che lo renderà famoso per il resto della sua carriera. Insomma, per Abreu c'è sempre qualcosa da imparare anche dalle situazioni più difficili. La vita gli darà sempre l'occasione per rialzare la testa. La prima avventura europea di Sebastian Abreu si chiude con 15 presenze e 3 reti con la maglia del Deportivo La Corugna. E beh, niente di che, un bottino magro, al di sotto delle aspettative. Allora lui prende di nuovo armi e bagagli e parte per una nuova avventura. Si ritorna dall'altra parte dell'oceano, destinazione Messico. Va a giocare con i Tecos. I Tecos sono la squadra della città di Zapopan, siamo nel sud-ovest del Messico. Nei secoli passati qua si dice ci siano state diverse apparizioni della Vergine Maria. Giovanni Paolo II è andato lì a riconoscere la veridicità di questi miracoli. Forse sarà anche questa atmosfera mistica. Di fatto Abreu si riprende, riparte da zero come è abituato a fare, ricomincia a segnare come ai tempi degli esordi, 29 reti in 34 partite, e questi gol gli fruttano una telefonata che arriva dal Nacional di Montevideo e lui risponde presente. E questa sarà solo la prima volta di Abreu con la maglia del Nacional, perché negli anni successivi la scena si ripeterà e in altre 4 occasioni. Insomma, il Nacional diventa una specie di buon ritiro per il Loco. Nella capitale del suo paese lui ritrova le forze per esprimersi al meglio e per ripartire verso una nuova avventura. Ogni volta che si sposta si porta dietro moglie e figlia, loro insegna la bellezza di poter scoprire il mondo, il piacere di imparare nuove lingue, nuove culture, perché in realtà questi sono i veri motivi per i quali Sebastian Abreu ha deciso di diventare un calciatore globetrotter. Siamo a metà degli anni 2000, Abreu continua a fare su e giù Messico, Uruguay ogni anno e divide i suoi impegni tra il campionato messicano e le partite col Nacional di Montevideo, e lì tornerà altre volte, lo abbiamo detto, i suoi spostamenti da un club all'altro diventano sempre più frequenti. Qualcuno comincia a pensare che lui cambi squadra così spesso per battere un record, cosa che in realtà a lui non interessa minimamente, lo dice lui stesso quando gli viene chiesto della corsa al Guinness dei primati. Non ho mai cambiato club solo per il gusto di superare il record. Allora non sarei tornato per 6 volte al Nacional, 2 al River e altrettante al San Lorenzo. Insomma, ci sono due tipi di giocatori: i giocatori bandiera, quelli che ti fanno innamorare di loro, della loro squadra. Ce ne sono sempre meno, ma insomma, Zanetti, Maldini, Totti, De Rossi, ce ne sono. E poi ci sono altri che invece fanno una scelta di vita differente, e sono quelli che per natura non riescono a fermarsi nella stessa piazza per molto tempo. Lui, Abreu, fa parte di questa categoria. Lui vuole stare sempre in movimento, conoscere mondi lontani, e per esempio va a giocare in Israele, va a giocare in Grecia, e in questi paesi peraltro arriva quando ha già abbondantemente superato la trentina, e la sua filosofia è diventata quella di giocare più partite possibili per restare sempre allenato, e dimostra di avere una grande capacità di adattamento in ogni squadra nella quale va a giocare. Lascia il segno, entra nel cuore della tifoseria, anche se magari rimane solo per qualche mese. Questo succede perché lui, sia quando gioca in stadi piccoli che quando gioca di fronte a folle oceaniche, sia quando gioca in squadre scarse che quando gioca in squadre di vertice, lui rimane sempre lo stesso, uno curioso, combattivo, piace alla gente, e questo uruguagio che ha la valigia pronta sotto al letto in attesa di nuove avventure, ma il cuore pronto a sposare una causa sempre e comunque. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando l'epopea itinerante di Sebastian Washington Abreu Gallo, per tutti semplicemente è Loco Abreu, uruguagio classe 76, un calciatore, un uomo che ha fatto della sua carriera un lungo viaggio. Ha giocato in ogni parte del mondo, ha indossato le maglie di squadre di paesi più vari: Argentina, Messico, Israele, Spagna, Grecia, però è in Uruguay che lui si toglie le sue più grandi soddisfazioni. È lì che è diventato un professionista del calcio, perché ha abbandonato presto la carriera nel basket e lui, tirando calci a un pallone, è entrato nella storia di questo sport grazie a quello che ha fatto sul campo, soprattutto con la maglia della nazionale, ma grazie anche alla sua voglia costante di girare il mondo, di cambiare un club dopo l'altro. Ma le imprese di Abreu non si fermano a quel glorioso cucchiaio del Mondiale 2010, quel rigore che ha portato la Celeste in semifinale. Eppure, quando si presenta quel tiro dagli 11 metri, lui ha già 34 anni compiuti, potrebbe decidere di lasciare per restare per sempre nella storia dell'Uruguay per quel gesto, quella follia, quel gesto da loco vero. Invece no, lui non è soddisfatto di quello che ha fatto fino a quel momento. È troppo presto per lasciare il calcio giocato per uno che peraltro al mondiale si è presentato come il giocatore con più gol segnati in carriera, 305. Insomma, accetta una nuova sfida, attraversa di nuovo quel confine tra Uruguay e Brasile e va a indossare la maglia del Botafogo. E ficar muito próximo da conquista do título. Partiu Loco Abreu, bateu! Arriva al Botafogo appena dopo il Mondiale in Sudafrica e riprende da dove aveva lasciato, con un bel rigore a cucchiaio che in Brasile chiamano alla cavadinha. Abreu in Brasile si ambienta subito in campo, porta tutta la sua inclinazione naturale al colpo di testa, che non è inteso come giocata, cioè non il colpo di testa, ma l'atteggiamento, la spavalderia, la capacità di spiazzare tutti con i suoi comportamenti sopra le righe. I primi mesi col Botafogo Abreu li gioca come se avesse ancora addosso la maglia celeste dell'Uruguay. Lui è carico, è determinato a fare bene e la sua vena realizzativa è sempre quella. Gode i benefici di quel momento d'oro della sua carriera, che è iniziato con un mondiale che non l'aveva visto protagonista fino a quel magico calcio di rigore. E al Botafogo segna a raffica, trascina la squadra, è il giocatore più carismatico, tutti lo seguono. Poi a volte però riemerge il suo spirito da matto, da loco, come in occasione di una partita di Coppa contro l'Havaí. Siamo nel 2011, Abreu subisce un brutto fallo da un avversario e si alza, comincia a rincorrere l'avversario con l'intenzione di ridargli quello che ha subito, ma di ridarglielo con gli interessi. Insomma, da quell'episodio ne nasce una maxi rissa che gli appassionati di calcio brasiliano ricordano ancora oggi. Abreu vai desesperado atrás do Marquinhos. Abreu, Marquinhos. Olha só. O Renan tenta separar. Esquentou todos os jogadores ali atrás do gol. O Marquinhos e o Loco Abreu vão para a briga no final do jogo. O Botafogo não se conforma com a eliminação. Jogadores do Havaí. O Loco Abreu foi agredido pelo Marquinhos no final do jogo. Lamentável a atitude dos jogadores no final da partida. Botafogo e Havaí. Vale uma vaga, o Havaí conquista a classificação. Botafogo está eliminado e o clima esquentou ali no gramado. A polícia intervém. Torcida do Botafogo. Scene di ordinaria follia sudamericana. Abreu subisce il fallo, va a cercare l'avversario che l'aveva disteso, i due finiscono a terra come due portuali che stanno litigando. Il loco tenta di strozzare l'avversario, da quell'episodio si scatena la follia, in campo si crea una maxi rissa, sono coinvolti i giocatori, quelli delle panchine, arrivano i militari, arriva la polizia che si mette a schermo dell'arbitro e dei suoi assistenti per evitare che vengano linciati dai giocatori del Botafogo, che sono completamente fuori controllo perché sono stati appena eliminati dalla Coppa. La cosa incredibile è che, una volta spenti gli animi, il loco Abreu sembra essere tornato in sé con passo felpato, esce dal campo come se non fosse successo niente. In tutto questo caos, peraltro, non viene estratto neanche un cartellino, sono cose che possono succedere solo in Sud America. Il loco, però, al Botafogo non si fa conoscere solo per questo episodio. Lui segna tanto, diventa capitano, trascina i suoi compagni di squadra che vedono in lui un leader, un riferimento, un esempio da seguire. Il turno di campionato brasiliano presenta la sfida tra due grandi squadre, il Botafogo e la Fluminense. E nel Botafogo c'è lui, il loco Abreu. Siamo sul 2-1 per la Fluminense, rigore a favore del Botafogo, e sul dischetto va lui, va il loco, nella sua testa sa già come tirarlo, prende una lunga rincorsa, corre veloce verso il pallone, il piede sinistro è pronto per lo scavetto, per la cavadigna, però stavolta qualcosa va storto. Autorizzato. Vai pra bola, louco Abreu, perna esquerda, cavadinha, pegou! Diego Cavalieri! Foi pra cavadinha de novo. E já tá meio marcada, né, pro louco Abreu. Olha aí o louco Abreu, vamos rever a cobrança, olha só, ele vai pra bola. Il portiere se l'aspettava quel cucchiaio, rimane fermo, e quando il portiere rimane fermo la figura è proprio terribile, è evidente, lo para e si corre quel rischio usando la tecnica del cucchiaio. Se va bene sei un genio, ma se va male vieni deriso da tutti, perché va proprio malissimo se va male. E Abreu va proprio così, insulti da parte del pubblico, gli avversari in campo che lo prendono in giro, quell'errore dagli 11 metri che sembra più una resa, la fine di un romanzo calcistico durato più di 20 anni, un romanzo pieno di successi, di avventure in giro per il mondo, una fine ingloriosa per uno come lui, che però solo un paio di minuti dopo ha l'opportunità di rifarsi. L'arbitro fischia un rigore molto generoso a favore del Botafogo, sul dischetto si ripresenta lui col numero 13 e qui ovviamente tutti pensano ha fatto un cucchiaio 120 secondi prima e adesso tirerà forte da una parte o dall'altra, e però il loco si è guadagnato questo soprannome non a caso. Loco vuol dire matto. Lui prende in mano il pallone, si ripresenta di fronte a Diego Cavalieri, portiere avversario. Questa volta il rigore lui non lo può sbagliare. Vai per la bola di nuovo lo Fabreu. Là vai ele, perna esquerda, bateu! Che lo sceneggiatore più bravo e più folle del mondo poteva immaginare una cosa del genere. Lui rimane fedele a se stesso. Tira 120 secondi dopo essersi coperto di ridicolo con un cucchiaio e fa un altro cucchiaio. Naturalmente il portiere non può andare a pensare a una follia del genere, e così il Botafogo pareggia grazie a un rigore tirato a cucchiaio del loco. Insomma, una cosa che lo fa entrare nella leggenda del club. E il Botafogo, dopo le due stagioni con Abreu che gioca con loro, decide di omaggiare la sua avventura in bianconero con una maglia speciale tutta celeste, che verrà usata come seconda divisa. Insomma, è un tributo a questo attaccante giramondo, un gesto che fa capire quanto questo giocatore sia stato capace di entrare nel cuore dei tifosi, non solo grazie alle reti, ma anche grazie al suo modo di essere genuino, capace di portare tatuati sul corpo i colori delle squadre nelle quali ha giocato, il tutto con una enorme dose di pazzia. Insomma, la follia e quei colori per Abreu rimarranno sempre stampati nel cuore. Il falco e il gabbiano. E la storia del Loco Abreu non si ferma al Brasile, alle imprese con la maglia del Botafogo. Gli ultimi anni della sua carriera lui li passa giocando in altri paesi del Sud America, Cile, Colombia, arriva fino a El Salvador. E tutte queste avventure sono caratterizzate da questo suo insaziabile senso del gol. Arriverà a toccare quota 400 reti in carriera, si avventurerà anche nelle serie minori, ma manterrà intatto questo spirito anticonformista, combattente, questo spirito che ne ha fatto un grande del calcio uruguaio. Diventa una sorta di totem, un esempio da seguire. Nel 2012, quando è ancora nel Botafogo, per diverse partite decide spontaneamente di indossare una scarpa bianca e una scarpa nera per dare un segnale di tolleranza, di condanna verso tutti quelli che dagli spalti e non solo passano le partite a prendersela con i giocatori di colore. Continua a giocare anche quando la carta di identità gli dice che ha passato i 40 anni. Il segreto della sua longevità lo spiega lui stesso. Sì, ma che clave che non ha essenza è un tema. Più che segreti, l'essenza sta nell'educazione. Dopo tanti anni da calciatore, è fondamentale mantenere sempre la stessa modalità di allenamento. Anche il modo di pensare e vivere il calcio è importantissimo. Oggi, a 41 anni, non sento più di tanto la fatica quando gioco, cosa che succede spesso ad altri calciatori della mia età. Forse perché fanno più fatica a recuperare la forma fisica o non si sentono più bene, così scelgono di ritirarsi. Io sono riuscito a mantenere un buon livello per tutti questi anni, anche grazie a un personal trainer che mi aiuta a studiare quali sono le cose che servono di più al mio corpo per rendere al meglio. Come l'alimentazione. Un nutrizionista ti può dare una mano per mantenere un bilanciamento generale. Ti dice quali sono i cibi che ti possono fare bene e quali no. È tutta una serie di cose che si sommano. Poi, unite al tuo talento naturale, al tuo rendimento, al legame che si crea con i compagni di squadra, al sistema tattico che si adatta al tuo modo di giocare. Tutto questo serve a farti giocare al meglio, indipendentemente dal paese in cui ci si trova e dalla squadra in cui si va a giocare. Tutto questo è fonte di grande soddisfazione. E quando vedi che lo puoi conseguire, ti genera una soddisfazione. E a 40 anni passati Abreu non pensa assolutamente di smettere, è libero di firmare con chi vuole lui, non ha un agente che cura i suoi interessi, è lui che sceglie dove andare a giocare. Per lui parlano i gol segnati in carriera, più di 400, e li ha segnati in tutti gli angoli del mondo nei quali ha deciso di andare a professare calcio. Nel corso di tutta la sua carriera lui non ha mai lasciato da parte la famiglia, lui è, sì, è Loco, ma solo in campo. In realtà lui, fuori dal campo, è una persona tranquilla, gli piace stare con la moglie, coi figli, nell'intimità della vita domestica, lontano dalla movida, dalle note di follie tipiche da calciatori. Intimità della vita domestica, a condizione di cambiare città ogni anno, però. E così la carriera del Loco Abreu, anche perché questo stile di vita lo tiene lontano, insomma, dalle tentazioni, la carriera continua. Siamo a 28 squadre nelle quali ha militato, distribuite in 11 paesi del mondo. In tutte lui ha vestito la maglia numero 13, che per lui è una sorta di talismano. E il 13 aprile del 2018 lui si trasferisce all'Audax Italiano, che è una squadra del campionato cileno, e quel giorno entra nel Guinness dei primati perché diventa il calciatore che ha vestito più maglie, quello che ha conosciuto i campionati e i modi di intendere il calcio di tante parti del mondo. Ha staccato un tedesco, si chiamava Lutz van Nistelrooy, che era un portiere che era andato a giocare anche nelle Filippine, che si era fermato a quota 25 club in carriera. Abreu però non ha inseguito questo record, è stato questo record che ha inseguito lui. Lui è un uomo diverso dagli altri, si è spostato da una squadra all'altra, da un campionato all'altro, solo per cercare nuovi stimoli, per cercare mondi inesplorati, per assecondare la sua curiosità, per vedere un mondo diverso e alimentare la sua cultura e quella della sua famiglia.